Peste, malattie e frastieri in casa. Una zalleia, una paleia. Ci vuole poco per fa botta. E subito troppo. C'è corose bivagnese. Petiegni o pappara la vesazzotta. Triddi, menestra con noi un faranata. Miscatacci lontana, tarantelle e bellichini. Paparole baccalà, o patano sfruculate, ma tassi e ciciri, e raddunno vai e raddunno vieni. Tiembi un poco tristi, senza corrente, seggi imbagliate, tu le scanne tiedi, l'acqua in casa, addò, tenga buona a mente, causoni strazzati, arrapazzati, zagli e funicidi. Noi eremo troppo contenti. Troppo contente, troppo contente, troppo contente con te. Senza sapere, né scrive e manca la legge, l'ubbirendo, la zappa che passavano a Nans. Sapemmo buono che sacco vacando, ti sono regge, con fighe seccate e seccumma, se ingiennero panza. Li porci con l'occhiata a birno, si scannavano, noi fatti che con occhio non barialato, la miscata le cose, ti sentivano parmora lo pataterno. Anna di persa, di criata in sallanuto. Noi eravamo troppo contenti. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. Si revertia con poco, pure con i soldi falsi. Lo canna stacciola, bottoni e formelle, lo quadrato, tuzzo e muro, miezzi scausi. Fenene tutta a taraddi, vino e zumbattella, senza scordare quando si matia, gli ermiti, gregni e pausietti, gimmalari, ammazzuccate si venia, sembra a prosutti, sausicchi e capocuddi. Noi eravamo troppo contenti. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. Quando poi lo granulino non c'era da stancare, che tempi quando la notte si scarfugliava, vino, zichitizzè, tutta scornacchia, sicchi da uno spagone, da si ammondonava, e per finisci l'anno, a olivo, uve e castagne, uno si apparava la meglio in cicleria, a dove non si perde, è tutto guaragno, piccinidi, quadrari, grossi e vecchi in compagnia, noi eravamo troppo contenti. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. S'accucchiava con gli amici e partennero loro. Papariavano contenti tutti quanti. Che ancora roppa la canna l'ora, si tenia a menda la notte santa. La Natale all'Epifania, come non ci si manda. La preganna la nascita di Cristo, a capuranna, a tutta stesa, a lucca e canta, per cose che manca appesa la giovista. Noi eravamo troppo contenti. Noi siamo troppo contenti. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti. Noi siamo proprio troppo contenti, troppo contenti. Resta con te. Noi siamo troppo contenti, troppo contenti, troppo contenti.